drag pe l'aria fresca, cadore ma varoso, e tu dormen stai, goppasti fronne rosa, o sola poca poca. Questo giardino sponde, o vento passa e va, sto ricciolino in fronte. Io te vorria basare, io te vorria basare, ancora non mi dici e ti scelta e ti scelta. Io mi vorrei dormire, io mi vorrei dormire vicino già tu. Nora puri, Nora puri. Sento sto cuore tuo che spatte Malona, dormen angela mia, chissà a chi ti suona, a gelosia tormenta sto cuore mio malato. Suona a me di mella, oppure suona nato. Io te vorria passare, io te vorria passare, ma ancora non io mi vorrei dormire, io mi vorrei dormire vicino già a tu. Nora puri, Nora puri. Nora puri,